Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, lo dico subito così non entriamo nella polemica, parleremo anche dei dati sulla disoccupazione. A mio avviso, questo è quello che voglio dire subito, il governo dovrebbe essere un po' più prudente, perché iniziare con una polemica, sì, gli occupati sono cresciuti, insomma, la disoccupazione è un problema. Poi ovviamente c'è stato un dato sugli occupati stabili rispetto a un anno prima, però i disoccupati a ottobre sono arrivati a 3.400.000, sono saliti di 286.000 su un anno prima e di 90.000 sul mese precedente. Ed è ecco perché la disoccupazione a ottobre fa il record storico, ahimè, in questo paese. Non avevamo mai avuto il 13,2% di disoccupati dall'inizio delle serie storiche, vuol dire dal 1977. Poi qualcuno mi può rispondere: ma nel 77 non si stava così male, auguri. Detto questo, abbiamo chiarito molte volte, la disoccupazione fotografa tutti quelli che non lavorano tra chi si dichiara disponibile a lavorare. L'occupazione invece fotografa tutti quelli che lavorano prendendo tutta la platea di chi potrebbe lavorare. Molte persone, donne che magari hanno appena avuto un figlio, donne che non stanno cercando, uomini che non stanno cercando un posto di lavoro, preferiscono stare a casa per vari motivi, rientrano in quelli che non lavorano, quindi non sono occupati, ma non sono disoccupati perché non lo stanno cercando. Allora, i due dati non sono sovrapponibili, e quindi dire che gli occupati sono rimasti fermi rispetto all'anno prima vuol dire che tra tutti quelli che potevano lavorare il numero di quelli che lavorano è rimasto identico. Perché allora aumentano i disoccupati? Un po' perché probabilmente nuove persone stanno cercando lavoro, e allora se qualcuno si è rimesso per necessità o perché intravede delle possibilità, si rimette a cercare lavoro e non lo trova, statisticamente è un disoccupato e quindi aumenta la disoccupazione. Al di là di questa, diciamo, spiegazione così anche di carattere tecnico e dovuta, io penso che si debba stare molto cauti, perché Renzi ha ragione nel dire che la disoccupazione preoccupa, deve stare più cauto nel dire che gli occupati crescono. E non si guardi solo il bicchiere mezzo vuoto, ok, la parte del bicchiere mezzo pieno, insomma non so se sia mezzo pieno. Di questo parleremo, e parleremo anche di un'Europa, e anche qui invito il Ministero dell'Economia e Finanze a essere più cauto, se per quel poco che vale. L'Europa ha detto, per voce del suo commissario europeo Moscovici, che è commissario dell'Economia e Finanza, che Francia, Italia e Belgio verranno riesaminati come legge finanziaria, come legge di stabilità, a marzo. Tant'è che il capogruppo del PPE all'Europarlamento tedesco Manfred Weber ha detto: il messaggio è chiaro, avete un'ultima chance entro marzo, altrimenti arriveranno le sanzioni. Moscovici è stato più morbido, ha detto: c'è una valutazione anche politica, per cui vi diamo più tempo. È come se un insegnante dicesse: ti diamo più tempo per recuperare i voti cattivi, per metterti in riga, e valuteremo anche il recupero che stai facendo. Le insegnanti una volta almeno lo facevano: se partivi da 4 e a fine d'anno eri vicino al 5,5, magari ti davano il 6 perché apprezzavano lo sforzo. Se invece partivi da 5,5 e stavi a 5,5, probabilmente venivi rimandato. Allora, l'Europa ci rianalizzerà assieme a Francia e Belgio a marzo. Invito il Ministero a stare più calmo, perché non può il Ministero dell'Economia e Finanze dire dall'Unione Europea arriva un apprezzamento sul bilancio 2015, quando lo stesso commissario dice ve lo rianalizzeremo a marzo perché non siamo così convinti che tutto tenga. È come se lo studente avesse detto: beh, l'insegnante non mi ha bocciato e quindi arriva un apprezzamento. No, ti ha rimandato a marzo, è un po' diverso, non ti ha bocciato, vuol dire che sta apprezzando i tuoi sforzi, però ti sta rimandando e vuole fare una verifica a marzo. E quindi avanti con le riforme, con coraggio, insomma, cauti, perché poi le frasi d'effetto possono essere ad effetto, ma poi devono essere anche sostenute dai dati. Come sentite, puntata oggi intensa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo dell'atteggiamento europeo e di questi dati anche italiani con chi un po' di Europa se ne intende, nel senso che ha fatto il Presidente della Commissione Europea per molti anni, ovvio che mi riferisco all'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, che sarà nostro ospite tra un'ora. Parleremo però anche degli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, partendo di nuovo dal petrolio. Ieri ricordavamo come spesso il rapporto tra prezzo del petrolio e benzina sia molto molto vischioso, e cioè cala molto lentamente il prezzo della benzina quando cala il prezzo del petrolio, però oggi tra virgolette veniamo smentiti, nel senso che ci sono già tutto un insieme di prezzi alla pompa che stanno calando mentre il petrolio continua a scendere. A New York ha perso un altro 6% oggi e ha, da inizio negli ultimi tre mesi ha perso circa il 30% del suo valore. Se lo parametrizziamo al rapporto euro-dollaro, siccome il dollaro si è rafforzato, vuol dire che in euro ci costa il 25% in meno il petrolio, non è poco, è un quarto in meno, però sono iniziati i primi cali oggi sui prezzi alla pompa. L'Eni fa un centesimo e mezzo ma l'Unione Petrolifera fa notare che comunque i prezzi industriali sono tornati al 2011, ma l'effetto non si vede appieno perché pesano gli aumenti di tasse e accise. Dicevo, anche di questo parleremo, così come della borsa. E allora partiamo subito con le notizie in breve. Le borse, per quello che riguarda gli indici, adesso vi arriviamo. Comunque Milano in questo momento sta facendo un meno 0,60%, Parigi e Francoforte e le altre borse. Oggi tra l'altro ricordo che essendo il Black Friday in America, la borsa americana chiude alle 14, ora di New York. Comunque Parigi invariata, Francoforte meno 0,13, Dow Jones più 0,30, Londra meno 0,15%. Per quello che riguarda il rapporto euro-dollaro, siamo a 1,20, lo chiedete, 1,24,5. Devo dire, si sta muovendo sempre in quella direzione il rapporto euro-dollaro, tra 1,24 e 1,24,5. Ancora, per quello che riguarda le notizie in breve, al di là del prezzo del petrolio, segnalo che c'è un nuovo record, ma c'entra anche col petrolio, un nuovo record negativo del rublo, la valuta russa. Sull'euro è sceso a quota 62, ci vogliono 62 rubli per comprare un euro e 49 rubli per comprare un dollaro. Pesano, oltre alle sanzioni, anche il crollo del prezzo del petrolio, perché come spieghiamo molte volte, intanto la Russia è un grande esportatore di petrolio, ma soprattutto è il primo esportatore al mondo di gas, e il prezzo del gas da sempre si muove in maniera identica, non come valore ma come movimento percentuale, in alto e in basso, dicevo, si muove in maniera identica a quello del petrolio. Nel frattempo dal Wall Street Journal arriva un'indiscrezione che dopo la crisi sta salendo la pressione sulle banche centrali europee perché acquistino oro o riportino a casa l'oro custodito nei caveau fuori dai confini nazionali. Il Wall Street Journal sostiene che a pochi giorni dal referendum che si terrà in Svizzera e che potrebbe costringere, se approvato, la banca centrale del paese a raddoppiare i suoi asset, i suoi investimenti in oro e a non venderli, la stessa pressione si registra anche in altri paesi. Quello che riguarda, mi dite che non ho dato i titoli, avete ragione, chiedo venia, i titoli in borsa oggi di nuovo in fortissima evidenza: Jux più 3,66%, Tods più 3,13%, Telecom più 1,70%, Finmeccanica più 1,60% come Moncler, Autogrill più 1,40%, World Duty Free più 1,1%. E poi invece per quello che riguarda i ribassi, segnalo Saipem, di nuovo tema del petrolio, meno 5,40, Tenaris come ieri, meno 4,24, Eni meno 3,33%, sembra la fotocopia. Non come valore, come movimenti percentuali, ma come titoli sembra la fotocopia di ieri. Invece rispetto a ieri CNH Industrial torna a perdere meno 2,80, G-Tech meno 2,50, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 2,30, Buzzi Unice meno 1,90, Pop Milano meno 1,60%. Allora, si diceva delle dichiarazioni di Moscovici, commissario europeo agli affari economico monetari. Ascoltiamo cosa dice Moscovici, che Moscovici, qua tutto Juncker si diceva una volta, adesso dicono Juncker, non capisco più. Comunque, dice Moscovici, siamo qui per far rispettare le regole senza creatività eccessiva. Ecco perché l'Italia assieme alla Francia e Belgio rischia di non rispettare il patto e verrà riesaminata a marzo. Io non so come faccia il Ministero dell'Economia e Finanze a dire ma no, ci hanno solo chiesto un po' di controllo dopo, apprezzano la nostra finanziaria. Comunque, Moscovici. Notre opinion souligne che l'avant-projet de budget de l'Italie. La nostra opinione è che il bilancio previsionale dell'Italia presenta un rischio di non conformità alle regole fissate dal patto di stabilità e crescita. Allo stesso tempo riconosciamo che l'Italia vive circostanze economiche sfavorevoli, con una crescita negativa e con un output gap negativo. Quindi, se ci si basa sulle previsioni autunnali, constatiamo che il bilancio previsionale non è totalmente conforme. Ciò che auspichiamo è che l'Italia innanzitutto garantisca di mettere in campo progressi sufficienti verso l'obiettivo di medio termine per migliorare il bilancio strutturale nel 2015. Per questo, attualmente stimiamo che il piano di bilancio non possa essere considerato come completamente in linea con le regole. Pensiamo che un piccolo sforzo supplementare può e deve essere domandato. Guardando al fronte del debito, questa esigenza è molto marcata e riconosciamo che rispettare completamente il criterio sarebbe molto difficile, tenuto conto delle attuali circostanze economiche. Ci sono ancora incertezze a questo punto. Abbiamo ricevuto le tre lettere dei primi ministri italiano, belga e francese. Sono lettere pubbliche e contengono piani di riforma che vanno nella direzione giusta. Continueremo ad esaminarle e da qui a marzo ci faremo un'opinione definitiva. Un piccolo sforzo supplementare potrebbe essere richiesto all'Italia sul fronte delle riforme strutturali. Stiamo avendo un dialogo costruttivo con il governo italiano. Esaminato, nous sommes dans un processus de dialogue constructif avec le gouvernement italien. Oh, vedo che mi date una mano, Moscovici. Ah, mettiamoci d'accordo, Moscovici. Per favore, questo è un programma che cerca, non sempre ci riesce, di mantenere una sua serietà. Ripeto, non sempre ci riesce. Del telefonino che ho lasciato qua, su cui ieri si è divertito Beppe Cruciani, cioè, non me ne frega nulla, nel senso, allora, tranquilli, se fossero questi i problemi che abbiamo con la zanzara. Andiamo avanti, restiamo seri se ci riusciamo. Allora, Berlino nel frattempo dice, lo dice il portavoce del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, abbiamo già deciso di investire 10 miliardi come governo tedesco, e su questo ci teniamo battistrada nel valutare gli investimenti come molto importanti. Ora, se posso, tanto direte che ce l'ho con la Germania, ma 10 miliardi sono il niente. 10 miliardi di investimenti per un paese come la Germania, che ne fa 230 di surplus commerciale, ma sono niente. E infatti lo stesso Weidmann, cioè il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, dice, considerato il fatto che gli investimenti pubblici netti, quelli tedeschi, da qualche tempo sono negativi, allora, la Germania ha un surplus commerciale che batte anche quello cinese, se non ricordo male, avrà il pareggio di bilancio, cioè deficit zero quest'anno, bravissimi, bravi, merito loro. Ma pure gli investimenti, il rendimento dei titoli di Stato negativi, c'è l'Europa ferma, la Germania è ferma come crescita economica, non mi dite che più 0,1 va bene, si sta avvicinando la deflazione anche lei, più 0,5% i prezzi al consumo, e in tutto questo vuoi essere il primo della classe con le pezze a sedere, nel senso che non investi nulla, anzi hai gli investimenti pubblici negativi. Voglio dire, c'era una figura, se non ricordo male, nell'avaro di Molière, che si chiamava Arpagone, vado a memoria, in cui quanto devi ancora incassare prima di iniziare a spendere anche tu? Cioè, se tu cioè, devi nuotarci nei dobloni come Paperone e inizia a fare degli investimenti. Lo abbiamo raccontato molte volte, ma non noi. La Germania non ha le infrastrutture che ha la Francia, per esempio. Può investire in più sulle ferrovie, sulla Deutsche Bahn, sulle autostrade. Andate in Germania e vedete se sono a quel livello. Eppure dicono che 10 miliardi sono sufficienti ancora per quello, o meglio che sono già una battistrada, dice Wolfgang Schäuble. Nel frattempo l'Italia risponde che l'Unione Europea riconoscerà il meccanismo virtuoso, lo dice il ministro Padoan, il che vuol dire in italiano che non l'ha ancora riconosciuto completamente, così capisco io, ma verrà riconosciuto. Ci sono circostanze eccezionali negative ma anche positive. Il prossimo anno, continua il ministro dell'economia, sarà di crescita positiva. E il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto: i temi politici e economici dell'Unione Europea in quest'ultimo periodo sono diventati dominanti nel dibattito europeo, eppure essendo molto controversi hanno assorbito totalmente l'attenzione, anche passando attraverso distorsioni e drammatizzazioni oltre ogni limite. C'è naturalmente, ed è dominante, specie per effetto della crisi, la tematica dell'Europa economica e sociale, o se preferite la tematica delle politiche economiche e sociali dell'Unione, e sono temi molto controversi, però questi temi hanno finito per assorbire, si può dire, totalmente l'attenzione, spesso attraverso tante approssimazioni, distorsioni e anche drammatizzazioni oltre ogni limite. Sì, non so, forse era rivolto ad alcuni partiti politici. Mi sembra che in realtà il tema sia talmente centrale che delle volte il tema europeo è talmente decisivo per la nostra vita che delle volte siano anche inevitabili non solo le drammatizzazioni ma quantomeno l'esposizione, cioè il parlarne tanto. Io su questo personalmente mi permetto modestamente di dire che non ho capito se il riferimento fosse solo politico a alcuni partiti o all'eccesso di argomentazioni sull'Europa. No, mi dispiace. Abbiamo capito tutti che ormai buona parte della nostra vita quotidiana viene decisa a Bruxelles, che poi ne dicono i singoli governi. Va bene per modo di dire, la disoccupazione giovanile, oltre al dato normale in Italia, che è appunto a record da quando lo misuriamo, dal 1977, cioè 37 anni che non riuscivamo a avere così tanti disoccupati, 3.400.000 ad ottobre, 90.000 in più in un mese, in un anno 286.000, sui giovani piove sul bagnato, nel senso che sono oltre 700.000 in cerca di lavoro, il 43,3%, e aumentano anche i giovani che hanno meno di 25 anni a caccia di lavoro. Io poi non capisco, perché poi c'è il Ministero del Lavoro che dice: attenzione, un andamento positivo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, cioè sono aumentati i posti fissi, come si chiamano in gergo, 400.000 contratti nuovi in più a tempo indeterminato, più 7% a tempo indeterminato. E ancora sulla disoccupazione il Premier Matteo Renzi dice: preoccupa, ma gli occupati crescono. Se guardate i dati dei nuovi avviamenti a tempo indeterminato, vediamo che nell'ultimo trimestre i numeri delle persone che trovano lavoro stanno crescendo. Ma non sono perché? Perché sono assunti, sì, sono assunti a tempo indeterminato, però perché i dati della disoccupazione continuano a segnare a livello statistico un aumento? Perché stanno accadendo due cose. Uno, c'è tanta gente che sta iscrivendosi alle liste di disoccupazione. Però è anche vero che ci sono ancora tantissimi problemi che non vanno sottovalutati e quindi ci sono tante crisi aziendali aperte, noi cercheremo di risolverle. Sì, allora anche qui bisognerebbe guardarli bene i dati, Presidente del Consiglio Matteo Renzi, i dati sugli aumenti dei tempi indeterminati sono relative al terzo trimestre, è vero, ma si tratta di comunicazioni obbligatorie, quindi le imprese sono comunicazioni che vengono date nel terzo trimestre, ma i contratti sono stati fatti prima. E la sensazione è che le imprese, non capendo che tipo di mercato lavoro, di legge sul lavoro ci sia in questo momento, aspettano inizio anno, fanno i contratti, poi partono. Comunque, detto questo, è vero che sono aumentati i contratti a tempo determinato. Guardiamo solo al 2014, lasciamo stare nell'ultimo trimestre, che non è esattamente così. Bisogna stare attenti alle sequenze temporali quando si parla con il Presidente del Consiglio, o chiedere ai propri collaboratori di farsi spiegare molto bene, perché si tratta di comunicazioni obbligatorie. Però dico, non si può però negare con questo fatto che gli occupati crescono. Il titolo dell'agenzia non può essere "gli occupati crescono", porca d'una miseria, perché gli occupati sono fermi, Presidente del Consiglio. Crescono gli occupati a tempo indeterminato e non nell'ultimo trimestre del mese. Bisogna essere precisi quando si parla di economia. Lo dico a me stesso, non lo dico a Renzi, ci mancherebbe. Se no poi chi è fuori non capisce più di cosa stiamo parlando. Allora, le comunicazioni obbligatorie sui nuovi contratti a tempo indeterminato sono relative al terzo trimestre, di contratti siglati nei mesi precedenti al terzo trimestre, e che non cambiano comunque la fotografia di un'occupazione complessivamente ferma rispetto a un anno prima e di una disoccupazione a record rispetto a un anno fa e anche al mese prima. Allora, l'inflazione invece sale allo 0,2%, le stime segnano un altro piccolo passo in avanti, ieri era allo 0,1% in più. Poi non dite che noi lecchiamo qualcosa a Renzi, perché quando non siamo convinti di quello che dice il governo lo diciamo esplicitamente, quindi vorrei anche in chi mi rompe sempre le scatole con gli sms che siamo schiavi del governo, un po' più di obiettività. Dicevo, l'inflazione cresce leggermente, soprattutto rincara quella al carrello della spesa dello 0,5%, a novembre i prezzi si sono riportati ai livelli di aprile. Vabbò, allora andiamo sul meteo e la pubblicità, che è meglio, perché oggi tra Presidente della Repubblica, Commissario Europeo, Presidente del Consiglio e Ministro tedesco, non so, spero di trovare la macchina quando esco dopo il lavoro. Andiamo al meteo e la pubblicità e poi parliamo di petrolio e benzina. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sette 39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, intanto la borsa che ha appena chiuso, per quello che riguarda Parigi più 0,18%, Francoforte invariata, Londra più 0,15% e l'America più 0,37%. Milano meno 0,43%, l'America, vi ricordo che oggi è il Black Friday e quindi chiuderà alle 14 ore di New York. UX più 3,55, TOZ più 3,13, migliori, mentre sul fronte dei peggiori, tra quelli a maggiore capitalizzazione, Saipem meno 5,40, Tenaris meno 4,30, CNH meno 2,90, Eni meno 2,70%. E Saipem, Tenaris e Eni calano sul dato sul prezzo del petrolio. Certo, c'è chi se ne avvantaggia, pensate un po' alle compagnie aeree di cui ogni tanto ci occupiamo. Oggi il titolo American Airlines ha guadagnato il 6%, Wall Street, e Delta Airlines ha guadagnato il 5%, mentre le società americane che sono attive nello shale oil, nel petrolio che si estrae dalle sabbie bituminose, e nello shale gas, stanno accusando cali tra l'8 e il 20%. Sapete, l'abbiamo spiegato, cosa c'è in ballo. I paesi produttori di petrolio, in una guerra di nervi, hanno preferito e preferiscono continuare a perdere incassi in questo momento e fare scendere il prezzo del petrolio, mantenendo invariata la produzione a 30 milioni di barili al giorno, nella speranza che, continuando a scendere questo prezzo, ormai appunto un 25% in meno, 30% in dollari in meno rispetto a 3 mesi fa, sotto i $70 al barile, dicevo, continuando a scendere il prezzo del petrolio, diventerà non più, non dico conveniente, ma neanche sostenibile per gli americani continuare a estrarre petrolio dalle sabbie bituminose, perché si calcola che per essere a break even, per essere a pareggio, il petrolio deve costare almeno $100 per rendere conveniente l'estrazione delle sabbie bituminose. Quindi è una guerra di nervi più strategica che tattica, tant'è che appunto, con la contrarietà dell'Iran, ieri l'OPEC a Vienna ha deciso che preferisce perdere dei soldi di incasso ma vincere la battaglia. Vincere, scusate, perdere la guerra ma vincere la battaglia. Qualcosa sul prezzo della benzina si sta già muovendo. Comunque, da dottor Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Buonasera, grazie. Allegria, Tabarelli, allegria. Buonasera, la sentiamo poco. Pronto? Buonasera. Hola, perché oggi c'ho già qualcosa che... c'è un'aria condizionata dal basso qui, perché quando leggo alcune dichiarazioni del governo o del ministero su quello che non è, mi arrabbio. Però stiamo sul prezzo del... petrolio. Oggi l'AGIP ha annunciato un calo di 1,5 centesimi sul prezzo della benzina, un po' enfatica l'agenzia, con crollo petrolio partono i ribassi, ma per ora c'è solo l'ENI. Però mi dica intanto le sue previsioni su questo, perché poi arriviamo al prezzo della benzina. Vincerà l'OPEC alla fine? Cioè, sta vincendo l'OPEC? No, l'OPEC ha già perso. Dopo 10 anni di mercato del venditore, cioè dell'OPEC, finalmente l'offerta, che ci ha messo 10 anni ad adeguarsi, in particolare quella americana, sta manifestando i suoi effetti. Perciò l'OPEC doveva tagliare. Per varie ragioni è impossibile che possa tagliare, per ragioni politiche ma anche tecniche, e pertanto c'è un eccesso di offerta che finalmente sta spingendo i prezzi a dei valori più normali che ne avevamo superato da ormai 5 anni, che erano oltre i $100, erano dei valori straordinariamente alti. $73 oggi più o meno, non escludo, la cosa più probabile è che scendano anche verso i 65 nei prossimi giorni. D'altra parte un rimbalzo ci sta nelle cose, perché ha perso quasi un terzo dopo 4 anni che era stabile a 105, adesso è 72, anche probabile un rimbalzo. Allora, io però sai che non ho capito, Tabarelli, cioè non ho capito perché lei dice che l'OPEC la guerra l'ha già persa, nel senso che avrà perso la battaglia, e quello l'abbiamo visto ieri, ma la guerra con l'America... Per chi si fosse perso le puntate precedenti, l'America di Obama ha ottenuto un grande risultato, forse uno dei pochi dal punto di vista economico, oltre alla politica della Fed, la quasi totale indipendenza dagli approvvigionamenti di greggio non americano, come ha fatto grazie allo shale gas e lo shale oil, in questo caso soprattutto, le sabbie bituminose. Peccato appunto, come dicevamo, che per estrarre sto petrolio, che è di difficile estrazione, non è neanche di ottima qualità, debba esserci un petrolio a $100, se no il gioco non vale la candela. Perché lei dice che la guerra l'ha persa? Ma perché l'offerta in questo momento deve calare. L'offerta non può calare perché l'Arabia Saudita è un paese che non riesce a scendere sotto i 10 milioni di barili al giorno, perché non vuole. Ma io, tornando all'America, che secondo me è il vero problema, perché è il filo conduttore di 50 anni di OPEC dal 1960, ma soprattutto dagli anni 70, è il rapporto fra Iran e Arabia Saudita, cioè tra il mondo persiano e sciita e sunnita, diciamo. Niente, questa è una guerra, l'Iran e l'Arabia Saudita lo fa perché per danneggiare, secondo me, l'Iran, perché l'Iran si sta avvicinando di nuovo all'Occidente. Come accadde nel 98, perché ricordo, lei se lo ricorderà, nel 98-99 i prezzi del petrolio erano a $10. Come no? Come no. Poi arrivarono anche a 30. Noi iniziamo il programma, pensa come siamo vecchi, nel 99, nel 99 no, nel 2001, scusatemi, 89 era il petrolio a 10 dollari, ma nel 2001 iniziammo il programma con un petrolio che viaggiava, adesso vado a memoria, intorno ai 30 dollari, può essere? Ho detto con... Certo, ma io mi ricordo molte trasmissioni che ho avuto l'onore di partecipare, in cui si parlava di recessione infinita con prezzi oltre i 40, poi 45, 50, 60, poi nel luglio del 2008 è stato 148, ecco, adesso sta tornando a dei valori più normali. Circa gli Stati Uniti non vedo così importante questa strategia, l'OPEC non è un organo che è in grado di avere una strategia, è un'istituzione che si è organizzata. Però vediamo se riesco a fare una domanda così difendendo l'OPEC, ma in realtà loro l'obiettivo l'hanno già raggiunto, perché adesso con il petrolio a 69 dollari, già il petrolio WTI, quello trattato in America, ci sono due prezzi del petrolio, quello Brent, che è quello del Mare del Nord, che è un po' più alto sempre storicamente, ma poi si muove in percentuale come il WTI, e poi c'è il West Texas Index, si chiama così, giusto? West Texas Intermediate, ha ragione lei, che è il WTI che viene trattato a New York. Sotto i 70 dollari è finito il petrolio trattato a New York. Hanno già vinto forse, perché in questo momento diventa sconveniente i titoli legati. No. Negli Stati Uniti, come abbiamo visto per la fratturazione del gas, cioè lo shale gas, abbiamo visto che per anni è partita questa industria quando i prezzi erano 11 dollari per milione BTU, poi sono crollati a 4 nel 2010, da allora dicevamo che doveva fermarsi la produzione di gas, invece è continuata a salire. È un problema anche per l'industria del gas mondiale, anche per quella americana, che è inarrestabile questa crescita, per nostra fortuna, per la fortuna dell'indipendenza energetica, ma non petrolifera, degli Stati Uniti. E la cosa è probabile che accada anche per il petrolio, cioè 70 dollari sono valori ovviamente peggiori, però la soglia è tra i 60 e gli 80, e poi è tutto da vedere quando riusciranno. Ci vogliono degli anni. Allora, ho capito il suo ragionamento, così faccio contento un ascoltatore che dice che, senza offendermi, ma lei ha detto... Tavarelli ha detto che lei non capisce, che io non capisco niente. Vabbè, infatti invito gli esperti perché ne sanno più di me, se invitassi un esperto che ne sa meno di me, sarei un mona a invitare l'esperto, o sarebbe mona anche l'esperto. Comunque, detto questo, lei dice l'Arabia Saudita e i paesi OPEC che rischiano di perdere questa guerra oltre che la battaglia, perché intanto a 70 dollari l'America ancora riesce a produrre shale gas, certo meno conveniente, ma ancora riesce a produrlo, shale oil, mi scusi. E allo stesso modo l'Arabia Saudita non è in grado in questo momento di andare sotto i 70 dollari di tanto, cioè di andare a 30, perché non ce la fa proprio, capito bene? Perché ne ha bisogno. No, l'Arabia Saudita riesce ad andare, come dimostrò nel lontano agosto del 1985, riesce ad andare anche a 7 dollari, non hanno grossi problemi, cioè non riesce a ridurre la produzione sotto 10 milioni di religioni, per ragioni soprattutto politiche, perché come nel 98, quando arrivavano a 8 dollari, allora non volevano fare spazio all'Iraq che tornava, certo, sul mercato, che tornava per ragioni umanitarie prima della guerra del 2003. Allo stesso modo adesso non vogliono fare posto all'Iraq che sta tornando, e alla Libia, e probabilmente all'Iran, perché se finiscono le sanzioni per il nucleare, l'Iran adesso è vicino a 3 milioni di barili al giorno, che è una tragedia umana straordinaria, perché questo paese ha enormi riserve, questo è un paese che potrebbe produrre l'Iran non 3 milioni ma almeno 10-12 milioni di barili al giorno, e pertanto di petrolio nel mondo, soprattutto nel Medio Oriente, cosa che sappiamo da sempre, ce n'è tantissimo. Le guerre e la politica ha sempre impedito che questo petrolio venisse fuori, questo è un momento che ne viene fuori tanto. Quindi quantomeno Tabarelli dalla sua analisi emerge un gioco un po' d'azzardo molto rischioso, sia per l'Arabia Saudita che per i paesi OPEC, cioè vanno un po' alla cieca a tentare di vedere se in questo modo riescono a ridurre la produzione americana, ma appunto non è detto che ci riescano. Assolutamente no, e vanno alla cieca, come è sempre stato nella loro storia, non è proprio la cieca, ma seguono molto il mercato, così è stato nel 73, nel 79, nell'86, cioè si devono adattare, del resto un cartello per definizione è fatto per stabilire delle cose. Infatti mi mancava anche una bella critica ai paesi produttori di petrolio, agli sceicchi, no, così oggi stiamo facendo l'unplan e la mia macchina la vedo messa sempre peggio. Ringraziare. Va bene, grazie al presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli. Traffico. Allora, la borsa adesso, giustamente ha ragione l'ascoltatore, lo shale è diverso dalle sabbie bituminose, intanto anche noi chiedo venia, siamo imprecisi per la fretta. Lo shale è la fratturazione della roccia, che ha un impatto ambientale forse ancora più grosso rispetto alle sabbie bituminose. La frantumazione della roccia, le sabbie invece sono soprattutto, se non ricordo male, in Canada, in Alaska, come estrazione. Vabbè, detto questo, la borsa. Allora, i titoli petroliferi non li commento perché abbiamo parlato fino adesso. Saipem meno 5,40, Eni meno 2,70 e Tenaris meno 4,30. CNH invece torna a calare del 2,93%. Prismian male perché ha molti clienti nel settore oil and gas, fa l'ex Pirelli Cavi, e si fa un ragionamento per danno indiretto, meno 2,17%. G-Tech meno 2,40%. Chiedo di G-Tech invece l'Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. G-Tech oggi era il primo giorno in cui era scaduto la possibilità per gli azionisti che non avevano approvato l'operazione di fusione con l'americana IGT di esercitare il recesso. C'è un po' di incertezza sull'andamento di questo recesso che dovrà essere comunicato dalla società. Certamente è un titolo che, siccome sarà orientato a essere quotato negli Stati Uniti, sta perdendo un po' con lo che è l'operazione, un po' di interesse, per questo oggi ha ripiegato. Allora, per quello che riguarda altri titoli, oltre a Prismian e G-Tech, andiamo sul lusso, perché invece bene si sono mossi titoli come Yux più 3,55, Tod's più 3,13 e Moncler più 1,60, ma anche World Duty Free più 1,20%. Nel lusso una buona ripresa nel mese di novembre, erano titoli che per diversi fattori, Hong Kong ad esempio, erano stati un po' dimenticati nel mese di settembre-ottobre, erano stati un po' venduti anche in seguito a buone performance, sono titoli che invece stanno tornando verso la fine dell'anno, e quelli che tu citavi, oggi Ferragamo è stato un po' più al palo con solo un più 0,18%, ma in generale, in particolare Yux, si stanno muovendo bene, c'è un buon ritorno nelle ultime settimane. Ancora per quello che riguarda Telecom, oggi bene, dicevamo più nel 60. Sì, l'indiscrezione che parlano delle sinergie presunte o calcolabili di un'eventuale integrazione tra la controllata brasiliana Tim Brasil e il gruppo Oi in Brasile sono positive, soprattutto il mercato prova a ragionare sul fatto che non ci sia bisogno per Tim Brasil di un aumento di capitale, era questo uno dei fattori che aveva di debolezza del titolo dei giorni scorsi, l'ipotesi di un aumento di capitale per l'operazione Oi, e per questo oggi c'è stata una risalita dell'1,6%, le sinergie si parla di 6-7 miliardi nel caso dell'operazione brasiliana. Altri titoli, Snam più 1%, Intesa più 1, Mediaset più 0,70, Generali più 0,60 come ST Microelectronics, mezzo punto di rialzo per Atlantia e il Banco Popolare. Miglior titolo in assoluto, Telecom Italia Media più 17% e Go Internet più 8%. E peggior titolo invece Digital Magix meno 6,70, IKF meno 6%, mentre su Telecom oggi è stato rinviato a giudizio Elio Catania, ex componente del CDA di Telecom Italia, per abuso di informazioni privilegiate, lo ha deciso il gruppo di Roma Nicola Di Grazia. Il manager è accusato di aver comunicato a un giornalista informazioni privilegiate. Grazie e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 ore, GR24. e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora veniamo all'altra grande notizia, la principale della giornata, quando oggi il commissario europeo agli affari economico monetari Pierre Moscovici, come abbiamo deciso che si dica, ha detto: abbiamo rinviato le decisioni, la Commissione europea ha rinviato le decisioni sulle finanziarie di Italia, sulle leggi finanziarie di Italia, Francia e Belgio con un senso politico-economico. Al di là delle dichiarazioni del Ministero dell'Economia e Finanze che dice no, è stata apprezzata la nostra legge di stabilità, a noi è sembrata quello che a scuola si chiama essere rimandati o non avere abbastanza crediti, come si dice adesso. Comunque sentiamo Moscovici proprio su questo. Le applicazioni circa le procedure per deficit eccessivo dovranno essere discusse al momento opportuno per tre paesi, Francia, Italia e Belgio. La Commissione esaminerà a metà marzo 2015 la situazione in rapporto al patto di stabilità e crescita. Questi tre paesi si sono impegnati ai più alti livelli di governo ad adottare e attuare entro i primi mesi del 2015 riforme strutturali favorevoli alla crescita. Queste riforme dovrebbero avere un impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine. Il nostro approccio garantisce la coerenza e la credibilità delle regole che applichiamo in modo scrupoloso. Non abbiamo voluto prendere decisioni precipitose che sarebbero potute essere contestate. Questo tempo aggiuntivo che è stato concesso ha per noi un senso politico ed economico. Ma deve essere chiaro, il tempo che resta non può essere tempo perso. Bisogna che le cose avanzino da qui a marzo. Deve essere anche chiaro che la Commissione non esiterà ad assumersi le sue responsabilità. Così appunto Moscovici e quindi il commissario europeo agli affari economico monetari. Il Ministero dell'Economia e Finanze, non dico che abbia minimizzato, ha fatto notare che vi è stato un apprezzamento sul bilancio 2015 dell'Italia da parte di Bruxelles, che non è prevista alcuna procedura di infrazione, che la Commissione ha tuttavia ravvisato, come si capiva dalle parole del commissario europeo, un rischio di non conformità con i requisiti del patto di stabilità e ha segnalato che in marzo sarà necessario valutare i progressi compiuti. Ora, come dicevo, a me sembra, per usare una metafora scolastica, che ci abbiano rimandato, come si dice adesso, non abbiamo avuto tutti i crediti necessari, non ci hanno bocciato, ma non ci hanno neanche promosso completamente. Nel giorno in cui sappiamo che sulla disoccupazione, sì, il Premier fa notare il bicchiere mezzo vuoto, noi abbiamo fatto notare anche il bicchiere mezzo pieno, l'inflazione comunque resta allo 0,2% e sostanzialmente veniamo da una settimana di giudizi contrastanti sul piano Juncker, vorrei capire come tutto questo si tiene assieme e ringrazio per averci raggiunto in collegamento chi di Europa se ne intende, quantomeno perché ha fatto il Presidente della Commissione Europea, e quindi mi riferisco al Professor Romano Prodi, buonasera. Buonasera a lei. Lei è stato per inciso anche Presidente del Consiglio, se non ricordo male, ma insomma, sì. In questo caso... E non farò, prima che gli ascoltatori inizino a scrivere, nessuna domanda sul Quirinale, ne ha già parlato molto e si tratta di politica politicienne, come dicono i francesi, a me interessa la politica economica in questo caso. Dunque, professor Prodi, visto che lei i meccanismi europei, anche politici europei, li conosce bene, cosa dobbiamo capire intanto da questa dichiarazione di Moscovici, che per inciso dovrebbe essere quello più vicino a noi, nel senso che i falchi sono Katainen e diciamo tutti i filo tedeschi, Moscovici è francese ed era visto come commissario a noi più vicino. Ci hanno rimandato oppure no? Sì, ci hanno rimandato con però un messaggio di cambiamento di metodo, no? Quando Moscovici dice che le misure verranno considerate sulla stabilità del medio termine, vuol dire che anche a marzo non farà solo il ragioniere, ma verificherà le condizioni di contorno. Cioè, in poche parole, entra un po' più di politica nella nuova Commissione rispetto alla vecchia. Però non è un cambiamento radicale, è un'interpretazione un po' più di buon senso delle norme esistenti. Quindi, se ho ben capito, le dice sì, ci hanno rimandato però con un atteggiamento più politico, per cui non solo sulle cifre, i decimali, ma nel valutare tutto il contesto. C'è una frase che a me aveva impressionato, tra virgolette, di Moscovici, quando dice concedere più tempo a Italia, Francia e Belgio ha per noi un senso politico, oltre che economico. No? Scusi, ma quando uno le dice, teniamo conto della stabilità a medio termine, il medio termine vuol dire un paio d'anni, no? E daremo tempo aggiuntivo, significa che non cambiano assolutamente le regole, le leggi, ma che verranno interpretate con un minimo di intelligenza aggiuntiva, cosa che non abbiamo avuto nelle scorse interpretazioni, però non è che cambi la politica europea. Qui il problema vero non è tanto se abbiamo una maestrina con la penna rossa o la penna blu o un maestrino che ci corregge un po' più di errore. Il problema è che ci sia uno spazio politico per la crescita. E qui naturalmente questo non dice assolutamente niente, quindi perché dobbiamo formalizzarci tanto su queste questioni, se è stato bocciato, non bocciato, eccetera? Io voglio capire se l'Europa cambia politica o no, perché siamo in una politica sbagliata. Questo è il problema, capisci? Allora, no, è molto importante quello che mi sta dicendo, perché lei dice, allora, da un punto di vista concreto è come se il professore o la maestra avesse detto, vabbè, ti do più tempo per studiare e valuterò, come facevano gli insegnanti, non so adesso, ma una volta vedevano se tu dal 4 passavi al 5,5, apprezzavano lo sforzo, ti davano 6, mettiamo adesso, sto un po'... Come faceva Kohl quando si dialogava sull'adattamento all'euro, no? Come fanno le persone di buon senso. Quindi va bene. Quindi però guardano anche il percorso e ci danno più tempo. Oggi il problema è che continuano i dati negativi, continua la disoccupazione, anzi aumenta leggermente, siamo sempre sotto zero, gli altri paesi europei sono in crisi, quindi non è mica solo un problema italiano. Cioè, quello è l'importante per noi, capisce? Quindi mi interessava molto il suo esempio figurato, perché da un lato si dice va bene, la maestra ha detto non ti valuterò più proprio in maniera al decimale, guardo lo sforzo che stai facendo, come facevano gli insegnanti una volta, e magari ti davano un 6 perché partivi dal 4 ed eri arrivato al 5,5. Adesso forzo un po' il concetto, però lei dice qui il problema non è se la maestra ci dà più tempo e apprezza lo sforzo e ci dà una piccola, tra virgolette, non spinta, ma un giudizio un po' più favorevole perché apprezza lo sforzo. Qui il problema è il tipo di insegnamento che sta dando la maestra, cioè bisogna cambiare il metodo. Il problema è se cambiamo programma di studio. Questo è il problema, insomma, no? Allora, spostiamoci, ci sono delle misure nuove, le misure di Juncker, che Juncker si è trasformato in Juncker, boh, io non lo capisco perché noi l'abbiamo sempre chiamato Juncker, ma non può darsi che sia cambiato, ma comunque il fatto è, questo piano è una svolta, ecco questo dobbiamo porci il problema, i tedeschi che decidono di metterci solo 10 miliardi di euro nella loro, in più nelle opere pubbliche interne, ma fanno cambiare rotta all'Europa, questo è quello che ci deve interessare. Infatti lei non aggiustiamo mica i nostri conti se non si comincia a crescere. Infatti lei cita, stavo dicendo, la dichiarazione oggi del portavoce del ministro delle finanze tedesco, il Falco Schäuble, che ha detto che la Germania sta facendo da battistrada negli investimenti perché ha già annunciato un investimento di 10 miliardi come investimento molto importante, che mi sembra che lei ritenga invece molto risibile. Traffico e poi torniamo per le altre domande che ho da farle. Allora, professor Prodi, lei citava appunto il ministro, il portavoce del ministro delle finanze tedesco Schäuble, mi sembra di capire che 10 miliardi per lei siano tutto tranne che una cifra importante. Lei si rende conto cosa sono 10 miliardi? Niente, è una misura simile agli 80 euro che possono andare benissimo nella direzione giusta, eccetera, ma non possono dare un impulso all'economia europea, non lo danno neanche all'economia tedesca, che è molto più grande della nostra. Ma quindi anche gli 80 euro sono niente secondo lei? No, gli 80 euro secondo me erano una misura, io ho dato sempre un parere favorevole agli 80 euro, ma qui si tratta del paese guida dell'Europa, un paese che ha di fatto la leadership di tutto in Europa, ma che non riconosce la responsabilità che consegue alla leadership. Voglio dire, quando gli Stati Uniti sono diventati leader dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto il piano Marshall, si sono resi conto che per il loro stesso interesse avevano bisogno di una piattaforma economica comune in crescita e di fare crescere il benessere anche all'Europa. Allora, la Germania è paese leader in Europa, lo è per le sue virtù, non per i suoi vizi, quindi è riconosciuto come tale, ma non riconosce la parola leadership. Cioè è leader senza essere leader, è leader ma non ha la leadership. No, è leader ma non lo vuole essere. Ma lo è di fatto però. Allora noi non possiamo vivere in questa contraddizione. Non lo vuole essere, non lo può essere. Capisce? Il dibattito sulla leadership in Germania è un dibattito impossibile perché richiama il passato, perché Beh, anche certe paure, certo. Sì, appunto, perché porta l'attenzione sul riarmo, però di fatto la Germania è leader, anche perché ogni sua mossa oggi è seguita dalla maggioranza dei paesi europei, perché tutti i paesi che giostravano intorno, cioè che giustamente no, avevano una politica di compromesso riguardo a Germania, Francia, Gran Bretagna, e si bilanciavano fra di loro. Abbiamo avuto da un lato la Gran Bretagna che dice: io fra 3 anni faccio un referendum e quindi può darsi che sia fuori dal club. La Francia è in difficoltà, allora dalla Polonia ai paesi baltici, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, tutti l'Olanda. Questi paesi qui, l'Olanda e poi anche addirittura la Spagna, che si bilanciavano e adesso si attaccano alla Germania, quindi la leadership è una leadership vera. Obama non telefona più al primo ministro inglese, telefona alla signora Merkel. Allora lei davvero esercita una leadership con 10 miliardi di euro di investimenti? Ma su. Allora, professor Prodi, intanto mi verrebbe come battuta, sì, se tutti i paesi si attaccano alla Germania, noi a cosa ci attacchiamo però? Perché o ci mettiamo in coda anche noi o cerchiamo una linea alternativa, e su questo vorrei un suo commento, cioè se il Presidente del Consiglio fate le riforme e portate a casa le riforme, Jobs Act, quella che interessa l'Europa, ma non solo, e anche la finanza, se non debba andare ed essere ancora più dura a Bruxelles. L'altra cosa che mi interessava però è un suo giudizio sul piano Merkel, perché a me sembra che i soldi siano pochi e un po' col gioco delle 3 carte presi da altre parti, e tutto il resto sia ipotetico, cioè 15 miliardi, forse 21, che devono sviluppare 315 miliardi, prego. Ma lei è un moltiplicatore di 15, ma grazie di Dio non capisco come si possa arrivare a 15, ecco. Io cioè veramente... che da 20 miliardi se ne possono sviluppare 15 300, volte tanti di investitori privati, di investimenti privati. Lo potrebbe anche fare, ma in una condizione di ripresa forte, di senso del futuro, in cui si dice benissimo, adesso ne buttiamo dentro noi privati, noi banche, ne buttiamo dentro degli altri perché abbiamo un'economia in ripresa. Ma nella situazione attuale, ma lei pensa davvero che si possa moltiplicare tante volte? No, non ho mai pensato e penso che ci sia molta fuffa in quel piano. L'abbiamo detto molto chiaramente, anche se poi il ministro Padoan ha detto no, ma il piano va nella direzione giusta. Mario Draghi ha detto va nella direzione giusta. Cosa vuol che le dica? Certo. Riprendo il proverbio che diceva sempre mia madre, meglio succhiare un osso che un bastone. Però dico, sì, siamo soprattutto a questi livelli, se il bastone, diciamo, ecco. Però su questo, professor Prodi, il piano Juncker è fuffa, quindi è cos'è? Un piano politico anche quello? No, una dimensione politica? No, è fuffa, è quantitativamente è piccolo e temporalmente incerto. Però è nella direzione giusta, spende un po' di più, ecco. E veniamo invece al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel senso che la forza che sta dimostrando, ripeto sempre, che comunque uno la pensi, che sbagli o che faccia bene, nei confronti dei sindacati, dei partiti, delle opposizioni, secondo lei deve usare la stessa forza e forse anche di più a livello di Bruxelles, o alla luce di quello che lei ha appena illustrato rischieremo comunque di restare isolati? Mi mancano qui gli elementi per dire come stanno le cose all'interno delle trattative, questo lo può dire solo Renzi. Io per un anno ho insistito che bisognasse, da più di un anno, che bisognasse fare l'alleanza di paesi che hanno comuni interessi, cioè Francia, Italia e Spagna, però poi in qualche modo non si è riusciti. Adesso non lo so quali alleanze ci siano, ma era chiaro che un anno e mezzo fa questo quadro che oggi si verifica era già evidente. Era chiaro che non bisognava andare a Bruxelles con la politica antitedesca, che non ha senso, perché ripeto, la Germania è anche un paese esemplare, ma fare vedere che non ha senso che un paese che ha 280 miliardi di surplus della bilancia commerciale, più di quello cinese, che ha inflazione zero e che a sviluppo zero non dia un bel po' di benzina nell'economia e non proponga all'Europa un rilancio. Mi sembrava chiarissimo, poi la politica ha preso altre vie e oggi io non le so. Voglio difendere la Germania, o meglio, insomma. C'è chi dice, però attenzione, la Germania potrebbe anche fare degli investimenti pubblici che mancano in Germania. Spesso abbiamo raccontato come non è che le infrastrutture tedesche siano sul modello svedese o svizzero, anzi, anche francese. O anche francese, è vero, sono migliori le infrastrutture francesi di quelle tedesche, certo. Non c'è dubbio, quindi la Germania potrebbe mettersi, diciamo, alla pari della Francia, però uno dice sì, ma magari tutti questi investimenti andrebbero ad avvantaggiare ditte, imprese tedesche o magari non europee o cinesi o indiane, quindi il moltiplicatore, prego. Ci sono dei modelli econometrici, certamente 10 anni fa avrebbero dato più aiuto all'Europa, perché adesso la Germania è molto più aperta nel commercio con i paesi extraeuropei da cui era prima, quindi il moltiplicatore è meno efficace, ma almeno dà un segnale che si cambia politica. Capisci che le nostre imprese e le nostre banche sono assolutamente demoralizzate. Non c'è un obiettivo, non c'è una meta segnata. Un grande piano tedesco darebbe un fortissimo incoraggiamento al resto dell'Europa. Senta, professor Prodi, questo mi interessa proprio nel finale dell'intervista, ma non è tanto come se ne esce, perché lei ha chiarito come se ne esce secondo lei, ma come butta? In che senso? Come butterà nei prossimi? Come se ne esce? La sua ricetta è chiara. Guardi, come butterà invece? C'è un dibattito nell'ultimo convegno, riunione a cui sono stato, no? Per quello che valgono le riunioni fra i professori, c'erano due pareri abbastanza distinti, no? Uno dice: guardate che i tedeschi dopo 2 o 3 trimestri di crescita zero cominciano a ripensare a queste cose. Altri invece, attenti soprattutto agli ultimi dibattiti del Bundestag, dicono no, non si muoverà nulla. E secondo lei 2015 andrà meglio da questo punto di vista o peggio? Per ora non c'è un messaggio di cambiamento. Potrà andare meglio di 0,0, insomma 0, qualcosa, ecco, ma non è questo di cui abbiamo bisogno dopo 6-7 anni di crisi. Grazie all'ex presidente della Commissione Europea, nonché ex presidente del Consiglio, Romano Prodi. Grazie a lei e buon lavoro. E poi come sempre un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Un augurio di buon fine settimana soprattutto a chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.